fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ci sono dei grandi ritorni a Resto Radio Convento, bentornati a tutti da Master Nick in questo aperitivo della domenica che si sta consumando per un'altra settimana, sempre molto divertente, sempre molto ricco di gente e ormai di amici. Dicevo che ci sono dei grandi ritorni perché abbiamo qui due ragazzi che erano già stati a trovarci qualche settimana fa e abbiamo bisogno anche dell'aggiornamento rispetto al loro, come lo chiamiamo? Alla loro passione, al loro fuoco d'amore, al loro rapporto platonico, come lo definireste? Alla nostra amicizia tamarra. Beh, bello, amicizia tamarra, concordi? Concordo. Amicizia tamarra e tanta roba. Allora vai, ricordiamo i nomi. Nives e Claudio. Nives e Claudio, ormai non è neanche più parola, non è neanche più il dono della parola. Esatto, te l'hanno tolto, neanche più il nome. E allora li abbiamo sentiti qualche settimana fa che si erano conosciuti in, cos'era, drifting? Sì, quindi piloti. Siamo due piloti di drifting. Entrambi piloti. E avete fatto qualcos'altro in queste settimane, qualche altra gara? Io purtroppo sono ferma. Lei sì, vabbè, chiaramente, ovviamente. Avevate in programma qualcosa allora? Montichiari, sì. Abbiamo fatto Montichiari, il festival dei motori. Ok. E abbiamo fatto una garettina di freestyle action game si chiama. Sì. E che è una gara di abilità ad ostacoli con la macchina, naturalmente. Sì. E niente, era nato tutto per intrattenere il pubblico, poi nel 2015 ancora, grazie a Vito Cirillo dei Diavoli Rossi. E niente, adesso si è diventato un vero e proprio campionato. È un appuntamento fisso. Sì. Esatto, due tappe quest'anno e pensiamo di farne quattro l'anno prossimo. Ah, quindi si raddoppia, sempre più grande, sempre più in grande. Ma Nives, tu mi avevi detto come avevi fatto qui a farti male, no? Sono caduta dalle scale. Vedi, nel modo come sempre, il più banale possibile. Esatto. E quando ti riavremo abile e corribile? Penso ancora un paio di mesi. È lungo, dai. Sarà ormai per l'anno prossimo. Vabbè, dai, però torni in più anche forma sì, che mai. Non è detto, perché a dicembre siamo stati invitati al Ruotando a Cesena. Ok. E a un festival nuovo di quest'anno a Pescara, quindi se riesco. Ma è destro o sinistro? Destro, quindi non puoi accelerare. L'acceleratore si può anche schiacciare. Il freno sono un po'. Freno frizione, no? Sempre? Quante marce hanno le macchine? Sempre 5. La mia ne ha 5. Ah, sempre a 5 marce. Beh, ma si viaggia a marce basse o riuscite a tirare su anche? Dipende quando dai cavalli e dal differenziale. Esatto. E quando diventi bravo, tiri su le marce. Esatto. Quindi riuscite ad arrivare alla quinta o no? No, difficile, quinta, difficile. Magari riesci a fare l'attacco in quinta, ma. Sì. Poi comunque qua in Italia non ci sono delle piste così veloci come in Europa. Ok. Io al massimo ho messo la terza, ho provato a mettere la quarta, ma non ho abbastanza cavalli per tenerla. No, non mi ricordo, pista o sterrato o entrambi? Autodromo. Ah, pista. Pista o piazzale, ecco. Comunque su asfalto proviamo. Asfalto. Prossimo fine settimana impegnati nell'ultima tappa del campionato italiano. Ah, però. Vediamo se andiamo. Oh, sempre oggi a mille. Non partiva. Sempre a mille. Ah, non partiva. Non partiva, non lo so. Non parte entro sabato. È un problema. E chi è il meccanico di fiducia? Non c'è, voi stessi. Nive Sarvetti, meccanico di fiducia. Voi stessi. Grande esperienza. Quello che riesco a fare me lo faccio da sola. Brava. Sempre macchiata d'olio, quindi. Esatto, è abbastanza. Se mi vedevi oggi pomeriggio non ero così ben vestita, ma ero tutta sporca di olio. Sì. Beh, su me Claudio non vede l'ora. No, perché? No. Stavo lavorando dentro la mia macchina e... No, non vede l'ora, nel senso che è affascinatissimo dalla ragazza macchiata d'olio, no? Sì, è già unta quando l'abbracci scivola. Esatto, no, perché poi i piloti hanno sempre questo, come dire, cercano sempre qualcuno che abbia la stessa passione della velocità e la stessa voglia la stessa adrenalina. Quindi mentre noi magari siamo affascinati, noi normali siamo affascinati da un tacco alto, da una gonna, eccetera, eccetera, il pilota mi rimane colpito dall'unto. Esatto, diciamo che sono affascinato dall'unto e distratto dal tacco e la minigonna. Ah, ok. E quindi a volte diventa un casino, però... Diventa un casino. Sì. Oppure era un modo elegante per dire a Nives che ti piace sempre. ma non se li mette mai i tacchi. Ah no? Ah no, sì sì, se li mette, è che non la ricordo quei tacchi. Eh beh, perché è due mesi che è ferma. Poi, fa fatica. Devo dire che con Nives c'è un problema di fondo. Sì. Che è veramente un grande problema che... Che non la convince, è dura a convincersi. No, non è quello. È che tutte le volte che dobbiamo andare c'è da litigare per chi guida. Sì, eh beh, dura lì. È dura. Mi piace stare in parte. Immagino. Non fate i navigatori, no? No. Non siete pronti a fare navigatori. Sempre prime donne, per restare in tema. Beh, quindi il circuito ci sono, cioè sono messi giù i vari ostacolini, no? Sì, c'è praticamente una linea da seguire, ok, che i giudici la mattina stessa. Ci sono dei clip point da prendere con il posteriore della macchina. E poi comunque la gara consiste in un twin. Cioè siamo due macchine che ci sfidiamo, uno dietro. Quello davanti deve fare la linea detta dai giudici, quello dietro deve stargli il più attaccato possibile e fare la stessa linea. Cerco di fare dei paragoni, permettetemi, per rendere magari la cosa un po' più comprensibile anche a chi non è, come dire, del settore, del mestiere. È un po' come anche lo sci, in cui si prepara la pista al mattino e fate la cosiddetta ricognizione o pronti via? Cioè avete una mini prova, qualcosa, o vi buttate sul percorso e come va? Perché sapete che gli sciatori prima della pista, una volta che il tracciato è stato disegnato anche dai giudici, fanno una mini ricognizione, una mini prova, o gli stessi motociclisti, per una cosa più vicina a voi, fanno il giro di lancio o le qualifiche che servono e poi via. Per voi com'è? Noi abbiamo le prove libere, quindi riusciamo, per quello che riguarda il campionato drift, abbiamo le prove libere e quindi hai due ore dove comunque ti puoi esercitare sul tracciato prestabilito. Che rimane poi quello durante la gara, cioè non cambiano? Non cambia, rimane quello. Ti eserciti su quello. Essendo in tanti non riesci a fare, due ore sembrano tante, ma in realtà riesci a fare 3-4 giri, non di più. Certo. Mentre per quanto riguarda il campionato del freestyle action game, per quello è a giro singolo. Si fa una ricognizione a piedi e poi si entra e si fanno tutti gli ostacoli. Però e questo è dura molto quella, bello, eh? Perché anche il più forte può sbagliare. Eh certo, assolutamente. Quindi non c'è modo. E come vi preparate in quel giro? Cioè, come fai? Focalizzate? Come fai, allora, a ricordare una pista a piedi? Cammini e ci gira attorno a tutti gli ostacoli e vai là. Poi il problema grosso è quando sei in mezzo, sei in macchina da solo e vedi lo speaker che ti dà il via e tu sei distratto da tutte le ragazzine che sono eccolo, vedi, è un problema. Non è un problema mio questo, è un problema. E infatti lei parte avvantaggiata perché non gli abbiamo non ha distrazioni, esatto, un ombrellino. Mamma mia, dobbiamo fare subito richiesta ai giudici e agli organizzatori. No, perché poi sentivo anche storie, ad esempio, di Valentino che si prepara la PlayStation facendo le gare prima la PlayStation per prepararsi alle curve. Sì, ma non è la stessa cosa. Sì, no, immagino. No, e poi fanno le ricognizioni ad occhi chiusi, cioè perché loro proprio si vogliono immaginare le traiettorie e così via. Noi invece per prepararci beviamo due birre prima di partire e poi se riusciamo anche uno shortino o qualcosa. E poi driftate, che è una meraviglia. Sì, questo ce l'ha insegnato il nostro amico Alberto Cona, che quest'anno sarà sicuramente il campione italiano. Ah, bello. E come mai, per chiudere, come mai il drifting e non, che ne so, i go-kart o il rally o qualche altra disciplina? Il rally è noioso perché non intraversi come intraversiamo noi. Ma bello, basta. Vuoi aggiungere altro? No, perfetto. Per quello, no, direi che non ci sono parole migliori per descrivere tutto ciò. Io, Claudio, non so tra l'altro come hai fatto a fare questa intervista con questo spettacolo davanti, e capisco la tua, insomma, si sono appannati le vedi, si sono appannate, è normale, è un effetto che fanno sempre a tutti. E invece Nives, adesso ti troviamo l'ombrellino, vedrai che qui riusciamo, magari deve cambiarsi la dentiera ogni tanto, però te lo troviamo, non ti preoccupare, che è buono, insomma, professionale, dagli quel minuto di pausa per... Lo vuole depilato. Ah, depilato, troviamo anche il depilato, va bene. Allora, grazie mille ragazzi, raccontateci, aggiornateci, teneteci aggiornati sulle vostre storie e le vostre gare. A presto, ciao! Ciao!